e all'inmila Elli e gestisci un lanciano di Yamia 24 mattino. Allora signori, siete pronti? Siete pronti alla lettura dei giornali? Questa è la rassegna stampa di 24 mattino. E poi vi ricordo che oggi regalerò gli ultimi due biglietti per Platone, la caverna dell'informazione, spettacolo che faremo domenica prossima, 15, è il 15 giusto domenica? Sì, domenica dai, tra tre giorni, alle 20.45 al Teatro Manzoni di Milano, ma vi aspettiamo dalle 19.45 per un sontuoso aperitivo. Eccoci qua. Allora, ieri chi ha vinto? Ieri si giocava sui vigili, no, su questo professore che è arrivato un giorno per mantenere i soldi, ha preso ruolo per un giorno nella scuola di Padova. E allora abbiamo assegnato a nostro insindacabile giudizio la coppia di biglietti a Roberto da Milano col titolo Il giorno più lungo, e a Sandro da Bareggio Il furbetto del cattedrino. Eccolo lì. E allora non ci sono gli applausi oggi. Mannaggia, applausi un po' sfumati. Perché oggi applausi un po' più sfumati? Gli applausoni. Va bene. Allora oggi assegneremo gli ultimi due biglietti, quindi a una persona, una coppia di biglietti a una persona, al titolo che tra poco vi dirò. Intanto andiamo a leggere i giornali. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Giovedì 12 gennaio, vediamo i titoli, soprattutto sull'articolo 18, la consulta boccia il referendum sull'articolo 18 e l'apertura del Sole 24 Ore, così il Corriere della Sera, non voteremo sull'articolo 18, Repubblica, articolo 18, no al referendum, e consulta perde Camusso per Il Giorno, cioè la leader CGIL. Mentre articolo 18 referendum bocciato, l'apertura del Messaggero, Il Manifesto invece pessimo lavoro. C'è da dire che oggi non troverete in edicola l'Unità, perché l'Unità, dove sono stati annunciati licenziamenti e anche possibile chiusura per rimanere solo online, è in sciopero. Invece voglio leggere solo questo titolo d'apertura della Stampa, perché da qui voglio partire. Questo terribile fatto, anzi due fatti di cronaca nera che oggi sono sui giornali e alcuni quotidiani aprono, come la Stampa, confessione shock, genitori uccisi per i brutti voti. Succede a Ponte Langorino in provincia di Ferrara, ormai l'avete sentita, avete visto i notiziari, avete sentito i notiziari di Radio 24, questa coppia di coniugi uccisi da il figlio e un amico del figlio. Coppia uccisa con l'ascia tra il figlio e l'amico, un patto da 1.000 euro. Ora io vi risparmio tutta la sociologia, tutte le interviste, tutti i commenti di chi, come se conoscesse alla perfezione quello che ha animato questi due ragazzi, come se li conoscesse da anni, come se li avesse seguiti passo passo. Ecco, chi queste persone sanno perfettamente il motivo che ha spinto questi due ragazzi a compiere questo duplice omicidio. Non lo sappiamo in realtà qual è il motivo. Gli inquirenti parlano di dissapori, ma dissapori come ci possono essere tra madre e figlio per la scuola. Neanche tanto datati. Il figlio delle vittime litigava con i suoi genitori, dicono dalla Procura dei Minori di Bologna, al quale è passato il caso, ovviamente perché sono minorenni. I dati di fatto sono Salvatore Vincelli, 59 anni, Nunzia Di Gianni, 45 anni, sua moglie, uccisi nella notte con un'ascia. Un altro dato di fatto, appunto, visto che tutti pensano di conoscerli, è il classico profilo del ragazzo di provincia tranquillo. Questo è quello che dalle testimonianze dei vincitori dei giornali era assolutamente tranquillo. Forse la cosa in più, il dettaglio in più che vi invito a leggere è il reportage di Niccolò Zancan a pagina 3 della Stampa, perché riesce a parlare col padre di uno dei due ragazzi assassini. Presunti assassini, certo, hanno confessato. Vi racconto chi è mio figlio, un debole si è fatto comprare. Questo è un altro classico, insomma, cercare di scaricare la colpa sul figlio delle persone uccise. Io, dice il padre di questo ragazzo, gli ho sempre detto ti devi impegnare per avere qualcosa, solo così la ottieni. Quando si è fatto bocciare la seconda volta per il patentino, gli ho detto arrangiati, tieniti la bici perché bisogna imparare a faticare. Avevo già speso per lui 600 euro e mi sembrava abbastanza, ma quell'altro, il suo amico, stava bene, pretendeva sempre di più, aveva lo scooter, il telefono da 700 euro, i vestiti firmati, detestava la madre perché lo sgridava, cercava di mettergli un freno, avevano litigato nell'ultimo periodo. Lo sapevo anch'io, ma chi poteva immaginare una cosa simile? In qualche modo dà la colpa, diciamo, all'amico. E poi racconta, sono venuti a dormire da me. Dopo il delitto, mio figlio pallidissimo, hanno dormito qui in questa stanza dove poi hanno trovato i portafogli, si sono svegliate alle 10:30, sembrava tranquillissimo mio figlio, davvero, hanno giocato insieme, gli ho fatto un piatto di pasta in bianco, chiacchiere normali. Poi mi dice mio figlio nel pomeriggio, sai che hanno trovato morti i genitori del mio amico. E allora piangeva, gli ho detto che era nostro dovere andare davanti alla casa della famiglia Vincelli, dire ai carabinieri quello che poteva essere utile. Lui ripeteva la propria versione, che si era sentito poco bene e che non c'entrava nulla. Poi alla fine viene portato in caserma e quando esce fuori mi dice perdonami papà, gli ho tirato uno schiaffo, sono scoppiato in lacrime. Più tardi i carabinieri hanno sequestrato il portafoglio a casa mia ed è stato mio figlio a portarli nel canale, a far trovare i vestiti sporchi di sangue. Mi ha sconvolto. Significa che aveva portato da casa quella sera tutto. Vuol dire che ci avevano pensato a quello che stavano per fare. Ora, visto che è un ragazzo buono ma un debole, ho paura che si uccida. Erano drogati, in carcere, era disperato. Questo è il racconto del padre, ve lo leggo pari pari, ognuno poi può fare il suo giudizio, come i tanti sociologi, psicologi, psichiatri che già sui giornali trovate in un profluvio di dichiarazioni, sanno tutti il perché e il per come di questo duplice delitto. Come c'è l'ennesima vicenda incredibile di questa Miss, come viene definita, perché davvero ha partecipato anche ai concorsi di Miss, Jessica Notaro, che era una istruttrice di delfini ora, e contro la quale l'ex fidanzato è il maggiore accusato, così lei dice è stato lui, le ha gettato dell'acido in faccia. È una vicenda che ricorda quella di Lucia Annibali, rischia la vista, non è in pericolo di vita, ma certo, ovviamente, rimarrà segnata per tutta la vita. Anche qui tanti articoli, vi segnalo, tra i tanti, Nino Femiani che intervista sul Giorno a pagina 5 Carla Cagliazzo. Lei venne arsa viva, bruciata, e dice ora lotto per le donne. Cosa direi a Jessica? Tieni duro, continua a ridere. Io non ho ancora una vita sociale, continuo il mio percorso di guarigione, nei prossimi giorni dovrò subire un altro intervento, però sono determinata a percorrere la strada intrapresa. Anche lei, come Lucia Annibali, dimostra una forza incredibile. E dice sfregiare con l'acido e col fuoco sta diventando un'abitudine, sono gli strumenti di più facile reperimento. Il mio ex era arrivato con una tanica di benzina presa al distributore sotto casa. Se diventi sfregiata e quindi brutta non sarai più mia, ma non sarai più di nessuno. Nella testa degli aggressori alberga questo sentimento criminale, quello del nostro annientamento civile. Il volto è il nostro biglietto da visita. E però dice tieni duro, si spera davvero che ce la faccia reagire con la forza con cui reagisce Carla Cagliazzo, almeno a dimostrare a questa intervista, con cui reagisce Lucia Annibali. Allora, vi voglio stuzzicare qui con il titolo che voi fareste se foste direttori di giornali, o meglio, i direttori di giornali non fanno i titoli, diciamo caporedattori, insomma se aveste la possibilità di titolare sulla notizia che vi sto dando. E mi raccomando, per il titolo migliore a nostro giudizio. Ci sono in palio l'ultima coppia di biglietti, quindi due biglietti per venire a teatro a vederci domenica sera. Io, Leonardo Manera, tanti comici, ci sarà Mario Giordano, ci sarà Mauro Meazza che suona con i Chapter 11. Ci sarà Vera Sant'Agata, che è una straordinaria ballerina. Insomma, ci divertiremo. E eccolo qui il titolo, mandatecelo al 349-238-6666. Diteci anche da dove ci scrivete. Arriva la legge regionale dei cacciatori. Multa di 3.600 euro a chi li disturba. Avete capito bene, in Veneto c'è una legge regionale per chi disturba i cacciatori che cacciano in maniera normale, secondo la legge. 3.600 euro di multa, animalisti! Come farete? Mano al portafogli! Non potete andare più a disturbare i cacciatori nel Veneto. Lo racconta il Fatto Quotidiano con Andrea Tornago a pagina 14. Qualcuno accusa Zaia di avere creato la nuova casta di privilegiati, quella dei cacciatori. La notizia però è questa. Arriva la legge regionale che protegge i cacciatori. Multa di 3.600 euro a chi li disturba. Forza, forza! Dovete esercitarvi su questo titolo. E allora invece passo all'articolo che mi fa una giornata. Ancora una volta i terremotati. Dopo il sorteggione in parcheggio in diretta streaming per dare le prime 20 casette agli abitanti di Norcia, ora arrivano i cerotti truffa ai terremotati. Bufera sulla protezione civile, lo racconta Corrado Zunino a pagina 13. Che succede? Succede che la protezione civile ha dato sia l'iniziativa e verranno distribuiti oggi dei cerotti di un'associazione parascientifica, fatti da un ingegnere nucleare, così dice di sé, tale Mehran Tavakoli Kesheh, iraniano, capo di una fondazione allocata tra molte contestazioni in Belgio. E cosa farebbero questi cerotti? Sarebbero cerotti che creano campi gravitazionali fermando i dolori, alleggerendo i pesi dell'animo. Ma che è sta roba? Tutto distribuito dalla protezione civile. Per carità, sarà tutto gratis, ma i terremotati dicono: ma che è? Che sono queste parafondazioni che ci fanno diventare cavie di esperimenti con cerotti che creano campi gravitazionali alleggerendo i pesi dell'animo? Ma signora, ma che fa? Ma metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia! Din dun dan, din dun daren non do. Dialetto cameranese. Camerano esiste ed è in provincia di Ancona. Oh, evviva, va bene, viva Camerano. Allora, distrattoni, c'è chi mi dice: ma chi ha vinto i biglietti, me lo son perso. Oggi hanno vinto, poi non lo dico più, però prendete appunti. Roberto da Milano e Sandro da Bareggio hanno vinto ognuno due biglietti, quindi quattro persone a teatro. Ne portiamo altre due oggi e basta. Ne abbiamo dati 10 di biglietti regalati qui a 24 mattino per il titolo oggi, che fa il titolo sui cacciatori che non possono essere disturbati in Veneto, altrimenti c'è una multa da 3.600 euro. Stanno arrivando tanti titoli, domani comunicheremo l'ultimo vincitore. Allora, entriamo nella pagina politica. Intanto, ovviamente, anche da parte nostra, di 24 mattino, da parte mia, gli auguri di pronta guarigione al Premier Gentiloni dopo questo malore con angioplastica successiva. Sto bene, torno presto, dice lui, racconta a tutti i giornali di questo dolore alla bocca dello stomaco, il senso di affaticamento, la leggera sudorazione. Dalla sera prima al ritorno da Parigi, racconta per esempio Margherita De Bacchi, il controllo e poi appunto l'angioplastica per eliminare l'ostruzione di una vena coronarica periferica, ma fortunatamente tutto bene e nel giro di pochi giorni il Premier Gentiloni tornerà, come ha detto lui stesso, a lavorare. Tra l'altro, proprio in questo giorno c'è il sondaggio di Nicola Piepoli, a pagina 10 della Stampa, racconta un mese di Gentiloni, del governo Gentiloni, il primo mese del nuovo governo, la fiducia record. Sapete a quale ministro va di più? Fiducia record al ministro Minniti, cioè al ministro dell'Interno. L'esecutivo ha il punteggio medio più alto nella storia delle rilevazioni. A Gentiloni si chiede determinazione sui nodi del lavoro e della legge elettorale. Sono tutti gli elementi, Nicola Piepoli, sondaggio a pagina 10 della Stampa. A proposito di lavoro, è certamente la notizia che era attesa di più, anche politica. Ieri la Corte Costituzionale, con 8 giudici contro 5, ha detto che è inammissibile il referendum sull'articolo 18 promosso tra gli altri da CGIL. Sono ammessi invece altri due quesiti, quindi si voterà sui voucher, se abolire i voucher, e sulla questione del codice degli appalti. Questo è un referendum un po' più tecnico. Comunque il referendum forse più importante su cui si attendeva il pronunciamento è il referendum sull'articolo 18, che chiedeva di cancellare il cuore del Jobs Act e la legge di Renzi, e cioè tornare a reintegro al posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo. In questo caso è stato giudicato inammissibile dalla Corte Costituzionale. Susanna Camusso, leader CGIL, dice: decideremo se rivolgerci alla Corte Europea per ripristinare i diritti contro i licenziamenti, dunque la battaglia continua. Certo, però, è una sconfitta per la CGIL. Allora, è una vittoria per Renzi? Questo lo mettiamo come punto di domanda. Qui bisognerebbe entrare nei retroscena. Certo, secondo il Messaggero, pagina 3, Alberto Gentili, è una vittoria nel senso che Renzi ai suoi dice: bene, finalmente una buona notizia. Perché chiaramente è un referendum che andava, voleva scardinare il cuore della sua riforma, il Jobs Act. Però dall'altra parte, con questo no, con questo stop della Corte Costituzionale, è abbastanza accertato che la possibilità di andare al voto anticipato si allontana un po' di più. E allora Renzi, che invece vorrebbe tornare a votare, magari entro giugno, per tornare al governo, o sperare di tornare al governo, allora da questo punto di vista forse è una vittoria a metà. Quindi Renzi si trova a dover guardare questo bicchiere o mezzo vuoto o mezzo pieno. In retroscena, secondo il Messaggero, Renzi direbbe proprio questo ai suoi collaboratori: bene, una buona notizia, in ogni caso si va alle elezioni prima possibile, al massimo a giugno. Vedete dunque che capisce che questo pronunciamento contro questo referendum rischia di allontanare le elezioni. È la lettura un po' di tutti i quotidiani, anche Carlo Bertini, Ugo Magri, a pagina 7 della Stampa, il titolo è proprio questo, retroscena: il partito del rinvio elezioni ora gongola, così si allontanano. Le voci filtrate da Consulta narrano di uno scontro epico combattuto a colpi di precedenti giuridici, eppure non ce n'è uno tra i quasi 1000 onorevoli riuniti ieri alla Camera che considerasse la sentenza diversamente da un valium, il cui effetto è distendere i nervi, rallentare la corsa verso le urne, soprattutto i peones attenti alla data del 15 settembre, quando matureranno le pensioni, sono convinti di avere sventato il rischio che un sì della Corte sull'articolo 18 terrorizzasse a tal punto l'establishment da spingerlo alle urne pur di posticipare di un anno il nuovo showdown referendario. Perché ecco, questo era lo scenario: sia referendum, terrore per evitare il referendum, l'unico modo era andare a votare. Invece il no, e quindi le urne si allontanano. Tra l'altro Renzi pensa però alle elezioni, tanto che ha in mente una strategia tutto tondo, a 360 gradi, una strategia che per esempio Emilio Pucci racconta sempre sul Messaggero a pagina 12. Qual è la strategia? Cambiare il direttore generale della RAI, Antonio Campo Dall'Orto. È vero, renziano, ma secondo i renziani non più tanto strategico. Ecco qui il titolo: Campo Dall'Orto non può gestire il voto. Ecco il piano renziano per voltare pagina in Rai. Non può gestire le elezioni politiche a giugno, perché si danno per scontate, evidentemente. Se Renzi torna a fare il rottamatore, deve cominciare da lì. Lui è un comunicatore, ma così non si comunica niente. Se andiamo al voto, rischiamo di fare la fine dei referendum. Questo è un virgolettato attribuito ai renziani in questi famigerati retroscena che escono sui giornali e che darebbero Campo Dall'Orto un po' sulla graticola se Renzi punta alle elezioni. Sulla graticola invece ci sono i colleghi dell'unità, giornalisti, 27 tra giornalisti e poligrafici che rischiano il posto di lavoro perché dopo 2 anni dalla rinascita l'unità, questo almeno ha comunicato l'amministratore delegato dell'unità Guido Stefanelli, e chiuderà con licenziamenti collettivi senza ammortizzatori sociali. L'unità oggi non è in edicola, è in sciopero, perché i giornalisti hanno proclamato sciopero dopo questa notizia. Oggi il manifesto dedica 2 pagine a questo. Il padrone dell'unità dice licenziamenti collettivi e niente tutele, e il direttore dell'unità Staino si appella proprio a Renzi e dice: mi dica cosa vuol farsene, è il segretario del PD, è andato da Cani e Porci ma da noi non ha fatto nemmeno un forum. E le criticità del giornale ci sono, non le nasconde Staino, ma è chiaro, insomma, nella tormentata storia moderna soprattutto negli ultimi anni dell'unità c'è questo nuovo passaggio sicuramente molto difficile per i giornalisti e i poligrafici che lavorano lì, 27. Oh, in tutto questo c'è una bella intervista completa, succosa, al capo dell'Agenzia delle Entrate, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossello Orlandi, intervistata da Marco Mobile e Salvatore Padula sul Sole 24 Ore, inizia in prima pagina, poi un'intera pagina, 25. Il titolo è questo: la lotta all'evasione comincia dall'IVA. Rossello Orlandi dice: incassati oltre 17 miliardi nel 2016, ma il passaggio, secondo me, clou è proprio questo, quando di fronte anche alle proteste dei commercialisti dice: io posso dire che cercheremo di capire, avremo un dialogo aggiuntivo anche con il nuovo presidente dei commercialisti Massimo Miani, forse c'è un clima di preoccupazione legato alla crisi economica che si sta facendo sentire, ma usciamo dalla logica che chiedere dati sia un capriccio. È un dato di fatto che in questo paese abbiamo la maggiore evasione dell'IVA. Loro sono convinti che le comunicazioni non serviranno. Vedremo. Io credo che arriverà maggior gettito. Sono le comunicazioni trimestrali, nuove comunicazioni trimestrali, che non riscontrano entusiasmo dei contribuenti. Parla di IVA, ma parla di ovviamente tanti altri temi in questa intervista. Ripeto, l'agenzia, il direttore dell'Agenzia delle Entrate dal 2014, Rossella Orlandi. Ma caro Mauro Meazza, che stai affinando l'ugola per domenica, non c'è solo questo ovviamente sul Sole. Ma certo che no, anche se, guarda, mi consenti Alessandro, sì. Dice anche un paio di cosucce che possono comunque interessare, è tutta un'intervista direi da degustazione quella che riportiamo con la responsabile dell'Agenzia delle Entrate, perché dice: stiamo già preparando il passaggio ai nuovi studi di settore che non esatto. saranno più usati come metodo di accertamento, ma diventeranno degli indici. Però dice: ci vorranno un paio d'anni per andare a regime, questo tempo, ad esempio. In Italia e poi, c'è e poi uno, tempo. Uno spiraglino, perché potremmo anche rivedere i termini per l'invio telematico dei dati delle fatture. Siamo pronti a rivedere i termini. Questo dice, tra le molte altre cose, appunto, in questa pagina di intervista che tu hai meritoriamente citato, come hai consigliato ai nostri ascoltatori. Oh, naturalmente oggi, essendo che è giovedì, perché sì, è giovedì, giusto? È giovedì, certo. È giovedì. Oh, infatti c'è Casa 24, ci sono le pagine di Casa 24. Torniamo sull'andamento, sul momento della casa, perché si prevede un aumento delle vendite di case, dovremmo superare 550.000 unità. Naturalmente c'è questo passaggio che è anche favorito dalla ancora un basso livello dei prezzi, riferisce tutto oggi su Casa 24 Paola Dezza. Oh, e poi sempre in Casa 24 ti segnalo che aumentano gli acquisti in Italia da parte degli stranieri. Stranieri che vogliono acquistare casa in Italia. Un altro spunto interessante oggi su Casa 24. Ma poi, visto che abbiamo parlato di fisco, ti voglio segnalare nella prima pagina i norme e tributi, una decisione importante che riguarda ancora la spending review di fine 2011. Te la ricordi? Penso che se la ricordino in molti, ce la ricorderemo in molti. Allora, lì era stato detto che bisognava risparmiare sul personale nelle casse di previdenza, ma che questi risparmi, e fin qui va bene, ma che questi risparmi però poi dovevano andare in investimenti per lo Stato. E invece, dopo anni e anni e anni, la Corte Costituzionale ha detto: no, questa cosa non è corretta, quindi non c'è questo obbligo di trasferire i risparmi in investimenti di titoli di Stato. Il tutto con i particolari, norme e tributi. Ti segnalo, hai già segnato, scusa, dunque sì. C'è un impegno domenica, giusto? Sì, domenica sera al Manzoni, tu ci adesso sei. Adesso me lo scrivo, ma a che ora precisamente? 20:45, 19:45 aperitivo, tu non sei invitato all'aperitivo, arriva pure alle 20:45. Non posso avere l'aperitivo, vabbè. Comunque no, invece... Così, disposizioni dall'alto, no? Ah, ho capito, va bene. Porterò una bottiglietta d'acqua da casa. Portati da bere, sì, sì, questo sì. No, ti volevo dire, se ti segni il 2 febbraio, sì? Perché c'è Telefisco il 2 di febbraio. Bene, okay. Lì, se vuoi ti invitiamo, te lo offro io un caffè, un bicchiere d'acqua, te lo offro io lì. Ti segnalo ancora, da norme e tributi, c'è molto altro naturalmente nelle pagine di finanza, ad esempio parliamo della chiusura del contenzioso di Volkswagen, si è messo d'accordo. Ha chiuso le pendenze negli Stati Uniti per oltre 4 miliardi di versamento, 4,3 in dollari, però stiamo parlando in dollari. Ti segnalo da norme tributi che doppio intervento da parte della comunità, dell'Unione Europea, figurine Panini, non c'è concorrenza sleale, era una causa abbastanza importante per le figurine Panini, mi sembra che tu sia abbastanza appassionato di calcio. Insomma, questo incide sull'album di mio figlio, di Mattia? Di quest'anno? No. Dovrebbe, diciamo, può proseguire serenamente in questo caso, avendo letto religiosamente può proseguire serenamente. Sì, glielo faccio leggere oggi. E poi, senz'altro, sì, bisogna cominciare da piccoli a leggere norme e tributi, è giusto, certo. Fa bene. E poi il gabibbo non lede il diritto d'autore. Bene, dai, è inutile che ridi, perché era una questione invece che si è trascinata per parecchio tempo, c'erano delle accuse di plagio addirittura dagli Stati Uniti, penso te. E così, leggi su norme e tributi, ci sono molte altre cose naturalmente, ma anche questo. Caro Alessandro, traffico! Sciogli lingua bergamasco. Ah, che la. Questa anche la nostra Aurora Lussana ce l'aveva detto una volta. Allora, l'inchiesta sui presunti spioni, i fratelli Occhio Nero che negano tutto. Intanto si scopre che la mail di Renzi e di Mario Draghi non è stata violata, l'accesso è stato solo tentato, come raccontano tutti i giornali. Poi la notizia forse più importante è che è stato rimosso il capo della polizia postale, Roberto Di Legami, perché è stato accusato dal capo della polizia, Franco Gabrielli, di non averlo informato. In fondo l'inchiesta è andata avanti 3 mesi, come raccontano i vari giornali. Sarebbe bastato un semplice avviso, racconta per esempio Ferenza Sarzanini sul Corriere della Sera. Il cellulare del presidente del Consiglio Renzi ha subito un'intrusione e deve essere sostituito. Invece niente, per 3 mesi questa inchiesta è stata tenuta in qualche modo nascosta dalla polizia postale alla polizia. Questa è l'accusa che ha fatto portare Franco Gabrielli a rimuovere il capo della postale. Oh, in tutto questo c'è anche l'aspetto, se volete, di colore, e cioè l'intervista tutta da gustare alla mamma di Giulio Occhionero e Francesca Maria Occhionero. Viene intervistata sul Corriere della Sera da Fabrizio Caccia e Virginia Piccolillo. Li hanno triturati i miei ragazzi, fatti a pezzi, parla così la professoressa Marisa Ferrari Occhionero, sociologa di fama internazionale, ex docente alla Sapienza. La chiamano da tutto il mondo e lei dice: ma che lusso, mio figlio è in affitto a 800 euro al mese in periferia, io pure in affitto, mia figlia le ho pagato il mutuo per comprare l'abitazione, ho dovuto vendere per 50.000 euro una casetta a Santa Marinella. Han scritto di super macchine, ma mio figlio guida una Yaris del 2001, Francesca una Fiat 500, un'altra auto rottamata. Mio figlio con le donne, con le russe misteriose, è stato con una ragazza ucraina che l'ha mollato. Sarebbe questo lo sciupa femmine di cui parlano i giornali? E la massoneria? E beh, che c'entra? È un reato far parte della massoneria? Dovrebbero chiudere tutte le logge, non vedo che male c'è. Non so perché mio figlio sia diventato massone. Di certo non lo era suo padre, professor Franco Occhionero, astrofisico geniale che aveva collaborato con la NASA. Vabbè, insomma, fa una difesa da mamma accorata e dice: i miei figli, altro che ricchi truffatori, si fanno pagare ancora la pizza. E vabbè, qui si entra nel campionario, insomma, dell'italianità, eccetera. Vabbè. Allora, due notizie dagli esteri. Trump, intanto. Trump che ha fatto il primo discorso accusando di nazismo quegli scampoli di CIA che hanno passato notizie su di lui. Certo, dice, piaccio a Putin, è un vantaggio. L'accusa da cui si deve difendere, o il sospettone, è che quando frequentava la Russia, Trump abbia messo in atto, Putin abbia messo in atto con i servizi segreti russi i classici metodi russi, quelli di filmarti, di ricattarti. Si parla di festini. Ieri uno degli account Twitter più diffusi relativi a Trump era Golden Shower, doccia dorata. Non starò certo qui a spiegare dettagli, chi ha capito bene, chi non ha capito si informi. Insomma, l'accusa è, non è che c'è qualcosa che può davvero compromettere la moralità, diciamo così, del presidente americano in mano ai russi? Ecco, vi lascio con questa domanda che tutti i giornali pongono. Ma voglio leggere questa notizia che arriva dalla Germania. Ho letto solo da sulla stampa, Alessandro Alviani, pagina 16. È molto interessante questa notizia. Sentite qui, in Germania, salari, svolta, operazione trasparenza contro la disparità di genere. Questo è il titolo che dice poco, ma nell'articolo si spiega bene. Anche i tedeschi non parlano di soldi, c'è un argomento che proprio non si tocca, è quanto guadagni, è una cosa fastidiosa, ma è stata passata una legge per cui nelle grandi aziende, quelle con oltre 200 dipendenti, ogni lavoratore avrà diritto di sapere quanto guadagnano in media i colleghi dell'altro sesso che ricoprono una posizione paragonabile alla propria. Cioè hanno diritto proprio contro le disparità di genere, che ne so, sono una donna, voglio sapere quanto guadagna un uomo che ha la mia stessa posizione nella mia azienda. Ho diritto a saperlo per vedere se ci sono disparità di genere. Le donne potranno conoscere gli stipendi dei maschi e anche viceversa, ovviamente, ma sappiamo che in genere sono i compensi delle donne che sono in media più bassi del 21% in Germania, e quindi c'è questa legge che fa un po' discutere, ovviamente. Che dire? Siamo quasi alla Carta Costa? Sì, dai, siamo alla Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Siamo sul Fatto Quotidiano, una mezza pagina di Caterina Soffici, eccola qui, che racconta tutti i drammi italiani nei confronti di Kate Middleton. Perché siamo così appassionati dei suoi abiti di Zara? Perché seguiamo la messa in piega di Kate Middleton? Perché da due giorni Kate Middleton è comparsa con dei cerotti alle mani? Sarà stato il gatto, forse? Il gatto reale che ha graffiato le manine della principessa Kate? Ma chi se ne frega!